Daniele, ti volevo chiedere che cosa pensi tu di questa questione del tempo da una parte, cioè a che cosa serve il tempo per fare un buon vino, quello che tu puoi considerare un buon vino, e che cosa anche determina il fatto che questo tempo da aspettare torna in qualche maniera a parlarci della terra, di dove quest'uva è cresciuta, di come è cresciuta quest'uva, no? Beh, il rapporto di tutti i vini col tempo è difficile da definire, nel senso che è una sorpresa continua, molto variabile di annata in annata sullo stesso vino, eccetera, è il comportamento nel tempo, e le previsioni sono fatte apposta per essere smentite. Tante volte penso sia capitato di uscire da una fermentazione convinti di avere un vino che avrà poi un'evoluzione molto lenta, e invece poi rendersi conto che è pronto molto prima di quanto ci aspettassimo, e viceversa ci sono dei vini che escono dalla macerazione, magari molto lunga come facciamo noi, che sono già molto gradevoli, e uno dice, cavoli, potrei uscire subito senza fargli fare legno, e poi ti rendi conto che magari sta per anni ad invecchiare e rimane tale, cioè è ad evoluzione lentissima, quindi avrà una parabola di evoluzione che poi andrà avanti magari in quel modo per decenni potenzialmente, e che però smentisce tutte le tue attese. Noi possiamo, assaggiando l'uva prima della vendemmia, capire qual è la maturità fenolica, che per noi è quasi un'ossessione. Noi cerchiamo di fare vini molto equilibrati tra alcol e maturità dei tannini. Per esempio, chi decide quando vendemmiare e in base a quale criterio? Ma siamo sempre io e mio fratello è più preparato tecnicamente di me. Diciamo che iniziamo a fare prove tecnologiche, ovvero rifrattometriche, controlliamo quanto zucchero c'è nell'uva, diciamo da inizio settembre in poi, e quando l'uva inizia ad avere una gradazione lontanamente ragionevole iniziamo ad assaggiarla regolarmente, in modo tale da vedere quando i tannini della buccia e dei vinaccioli ci sembra che siano adeguati, e poi il tempo dopo in cantina è un tempo che continua a trascorrere e tu non sai se stai facendo bene. Noi facciamo invecchiamenti molto lunghi, vorremmo fare invecchiamenti molto lunghi in bottiglia piuttosto che in legno, poi in realtà fino ad esempio a questo anno e gli altri anni che abbiamo in degustazione qui sono ancora invecchiamenti molto lunghi in ossidazione, ovvero in legno, sono invecchiamenti da 5 anni così. Probabilmente col tempo ridurremo la permanenza in legno e prolungheremo la permanenza in bottiglia o in un contenitore come l'inox, che già stiamo usando molto, o il cemento se potremo usarlo, per abituare il vino alla vita che poi avrà in bottiglia, perché starà poi sigillato, ci auguriamo, per tanti anni prima di essere bevuto. Quindi la vediamo così per adesso, poi cambieremo idea a brevissimo tempo naturalmente. Beh, ma le idee sono... l'essenza delle idee è quella di essere cambiate, altrimenti...